fare tutta la... Resto Radio Convento, per raccontarsi, per raccontare. 2:31 del mattino, quasi addirittura d'arrivo in cui, di questa lunga notte di Halloween, quando il trucco inizia a calare e diciamo che la perfezione che si era raggiunta uscendo dalla porta di casa inizia a venir meno, perché si comincia a sentire la fatica della serata e del divertimento. Ma c'è un lato positivo in tutto questo, che non si vede la stanchezza, perché è tutta coperta dal trucco, quindi c'è pro e contro in ogni cosa. Ma non parliamo di questo, perché abbiamo altri 4 ragazzi che sono venuti a trovarci con, e mi spiace per tutti quelli che sono qui fuori, ma mi prendo questa responsabilità, il costume che mi ha più impressionato in questa serata, che è quello di questo ragazzo. Grazie. Mi perdonerete, ma io amo gli accostamenti bizzarri, eccentrici. E questo ragazzo che si è definito fantasmagorico, se non sbaglio, all'inizio della serata, in una nostra intervista ha lasciato il segno. Io l'ho definito, per farvi capire, essendo a radio dobbiamo aiutarvi, colui che è stato in grado di aprire, cioè di far fede al detto che dice: ho aperto l'armadio e mi sono messo la prima cosa che ho trovato. Ed è veramente così, perché ha azzardato, credo, ogni accostamento cromatico che voi possiate immaginare nella tavolozza di colori che avete in mente, andando ben oltre l'arcobaleno, cioè passando anche i 7 colori dell'arcobaleno. Ma ora andiamo a conoscerli meglio. Intanto partiamo dai nomi e dalle presentazioni. Alessandro, piacere. Piacere, Michele. Michele. Martina, piacere. Ok, da dove venite, ragazzi? Soiano del Lago. Soiano, quindi Lago di Garda. E vabbè, cosa ci fate qui? È chiaro, per festeggiare Halloween insieme a noi. Ma come avete organizzato la serata? Insomma, da cosa siete vestiti, a parte il tuo tutto? No, la serata, a dire la verità, siamo qui per caso. Nessuno di noi è mai stato qui prima. Come la maggior parte delle cose che funzionano. Esatto, e ci torneremo sicuramente. Bene. È stata una grazie. Piacevolissima scoperta. Bene. E niente, è partito tutto, io volevo anche stare a casa, quindi è stato meglio. Ma si vede. Sì. Che qualcosa nella tua persona mi fa percepire che tu non fossi pronto a questa festa. E che tu non fossi predisposto e preparato alla serata. Quindi mi sono adattato. Bravo, grande. Ci siamo adattati, però. Sì. Ok. Quindi dai, raccontateci un po' l'idea, se c'è un'idea dietro al vostro abbigliamento o il motivo dietro al vostro abbigliamento. L'idea. Perdonami, vorrei tenerti per ultimo, se non ti dispiace. Posso raccontare la storia? Sì, no, così intanto pensi a tutto quello che devi dire e al motivo. Ho tratto ispirazione da Mercoledì, okay. Protagonista della Famigliata. Ok. E dato che quest'anno poi Halloween cadeva proprio di mercoledì, hai detto di interpretare questo personaggio. Ci sto come la ciliegia sulla torta. Brava. E hai mai portato le trecce così la prima volta? No, o ti è capitato anche nella vita reale? Porto la treccia lunga dietro, però 2 singole, così è la prima volta. Vedi, che anche mi dicono tutti che sto bene. Vedi, così. È anche un modo per cambiare se stessi e per scoprire un qualcosa che magari si può riportare a ritrovare nella vita di tutti i giorni. Ok, poi il signor Casper qui, fantasmi. Sinceramente non so da cosa sono vestito. Ho fatto tutto lei. Ha fatto lei, benissimo. Mi piace che nella coppia si veda chi porta i pantaloni subito. Devo lavorare. Giusto. Sempre, cioè, è una grande scusa questa. Guarda, amore, dai, prepariamo qualcosa per Halloween. Devo lavorare, sai com'è? Anche lei doveva vestirsi così, però. Però diciamo che non mi diceva più di tanto. Ah, certo. Beh, allora facciamo così, visto che non hai preso la responsabilità di scegliere il vestito, prenditi la responsabilità di provare a descriverlo. Beh, è una tutta bianca da pittore con una maschera. Una maschera bianca. Sì, però ti stai svilendo in questo modo, cioè ti stai proprio svalutando al minimo. Ma un preservativo con una bella faccina. Esatto. Già, okay. Ti ha dato un colore, ti ha dato un'idea. Bello, beh, sempre cose importanti e fondamentali nella vita di tante persone. Ok, poi? Io in realtà non ero sicura di volermi vestire, poi alla fine hanno deciso tutti i maschi. Ha deciso lei anche per te, Madonna, è il capo supremo del mondo questa ragazza. L'anno scorso ci eravamo organizzati, quest'anno è stato un po' tutto così. Ho capito, l'anno scorso abbiamo iniziato a pensare, pensavo che faceste riunioni da un anno. Il vecchio capodanno eravamo più nel mood, uh-huh. Il vecchio Halloween, mamma mia. Vabbè, è ora tarda, è normale. E quindi niente, all'ultimo, cioè avevo iniziato a pensare qualche giorno fa cosa mettermi, poi però ero in dubbio, allora sono andata in un supermercato, ho comprato il primo vestito che ho trovato, perfetto. Mio fidanzato, insomma, bravo, che ha aperto l'armadio, uguale. Bravo. Io pensavo che fossi della compagnia del riciclo, invece no, hai acquistato. No, sì, quest'anno sì, perché l'anno scorso avevo deciso di noleggiarlo. Uh-huh. E quest'anno, visto che alla fine meno male con lo stesso prezzo, me lo portavo a casa e così l'anno prossimo. Quindi non avrò entrerai. Più. Attenzione, facciamo un applauso a una nuova entrata nella compagnia del riciclo. Benvenuta, è un gruppo che si sta allargando notevolmente. Sì, perché in notevolmente, periodo di crisi, giustamente. Notevolmente, sta prendendo adepti su adepti e quindi sarà divertente, ti dico che è divertente, porterà soddisfazione. A volte un po' di delusione perché ci cacchio anche quest'anno, poi però dici, anche quest'anno. Faccio a cambio con lui l'anno anche quest'anno, prossimo. Anche quest'anno. Faremo esatto. A cambio. Ma qualcosa trovi. E attenzione, Dulcis in fondo. Attenzione. Lui. Vabbè, giusto per completare. Io non lo conosco, ma già so che questo al ristorante è il famoso ragazzo, l'unico tra l'altro temerario, che prende la pizza dello chef. Quella che ti porta quello che c'ha voglia lui. E tu proprio vai a sbattere faccia contro un muro. Vedi? Giuro, è vero. Vedi? Perché io l'ho capito, quindi per farvi capire la tipologia di persona che avete davanti, uno che rischia di prendere la pizza dello chef, adesso raccontati. Sulla storia della pizza sì, sono proprio uno che mangia di tutto, di più, quindi sono uno che sperimenta. E no, allora c'era l'idea di fare come l'anno scorso, noleggiare, vestito da prete, da papa, come l'anno scorso. Però quest'anno ci siamo svegliati un po' tardi e ho aperto l'armadio, per di più l'armadio dei ricordi. Sì. Perché questo gonnellino è un ricordo della mia laurea. Ok, la ok. Di laurea, quindi è ancora l'unica cosa intera che c'è ancora. Ok. E poi, vabbè, il piccolo aneddoto è che questo vestitino molto, molto bello e sexy. Descrivi perché siamo in radio, ovviamente sì, no, non vedono. Da pagliaccio, che però è un pagliaccio serio, non sì. È un pagliaccio che scherza. Infatti mi hanno anche truccato benissimo qui, complimenti alla signorina che trucca. È proprio frutto di un'evoluzione di un bambino che cresce male e diventa un pagliaccio cattivo, perché questo vestito è in sé un vestito. In questi due minuti hai fatto tutta sta cosa. Mio amico e di praticamente, senso. E praticamente questo vestito, non sto scherzando, è un vestito da bambini da 5-7 anni. Io non volevo offenderti, ma l'avevo notato un po'. E sono magheggiando. Mi sono accorto tardi. E me lo sono dovuto infilare. Insomma, taglia cuci di qua, un po' di. Hai tolto il carboidrato nell'ultima esatto, settimana. Poi mi sono inventato qualcosa, il gonnellino della laurea e sono uscito. È buona. Poi è la buona. Maschera ci stava, poi mi hanno truccato bene, non è niente male. Sì, poi non è più usato la maschera. Poi c'è cos'è sta pialla qua? Sta pialla qua è. Diciamo è accetta, che nasce. È il kit. Però c'è dentro un cerca persone, perché comunque insomma metti che mi. Giusto. Bisogna pensare anche alla praticità. Esatto. Pensare anche alla praticità. Sì. Cosa fate nella vita di bello? Studio io. Ok? Anch'io. Ok? Lavoro. E io faccio la massaggiatrice. Bello! Amico mio, tu hai firmato. Sì. Hai firmato in bianco. Siamo anche noi. Hai firmato veramente in bianco, ma, e me lo confermerai. Quando è, non c'ha mai voglia. Esatto, Hai visto? Non ne avevo dubbio. Non c'ha mai voglia. No, beh. Tanta esperienza. Aprire gli occhi. E... Tanta esperienza. Esatto, esperienze diverse. E quella cosa lì è come come tutti quei lavori lì che arrivano a casa e ancora. Dai. Tutto il giorno. Domani. Fatto tutto il giorno, anche adesso. Mamma mia. È vero. È brutta. E cosa studiate invece voi? Io economia. a Bergamo. E io scienze. Scusa, veramente? Sì. Cioè economia a Bergamo. Sì. Quindi il tuo futuro è in camicia e cravatta. Sì. Si spera. Probabilmente. Non è detto. Ma è anche già dottore. Cioè. Non è detto, dai. Vabbè, sì, è vero, già laureato, quindi già sì, è vero, la sua strada l'ha fatta. Però non è detto che sia giacca e cravatta, però penso che sia di un certo ruolo. Cioè, esatto, cioè insomma, c'è una buona probabilità. Magari sono un fenomeno, vado a lavorare così. Sì, beh, insomma, io stringerò la mano al tuo capo perché è un po' difficile accettarlo. Se è uno di ampie vedute, ben venga. E la signorina? Io invece studio scienze della comunicazione, sempre a Bergamo. Bello, bello, altro bello. E manca lui, manca il suo lavoro? Io mi occupo di web marketing. Ah, bello! Sull'informatica. Ma app, quel mondo lì? No, o no, tipo siti web, cos'è il SEO, esatto, tutte quelle ricerche, esatto, lì utilissime, esatto, c'è giro lì, eh? Sì, sì, sì. Perché gira e rigira, vuoi non vuoi, comunque l'azienda ti viene a cercare, esatto, perché comunque, ti dà visibilità, ti dà... Allora dovrai aiutarmi a chiarire un mistero glorioso che mi porto dentro da mesi e che voglio, come in una seduta terapeutica, tirare fuori adesso. Come funziona il mi sento fortunato? Figa, ma davvero? Vedi? Quante volte te lo sei... No, davvero? Ma dammi una risposta seria. Io cerco in te, come l'oracolo di Delfi, una verità. Quindi dammi una verità. Avevo letto che Google l'ha messo lì a caso come studio per farti cliccare su ricerca. Cioè, per farti cliccare sul pulsante a sinistra che è ricerca. Ma in sé cos'è che si fa? Ti manda su un sito a caso. Ma chi è che lo decide? L'algoritmo, Google, no? Quale sito farti aprire, o c'è anche lì un discorso di cash e quindi io pago per entrare nel mi sento fortunato? No, io non credo, cioè sinceramente no, quella lì l'avevo letto anch'io, che l'avevano messa a caso. Ci avevo letto una cosa del tipo, una sorta di sfida all'utente, sì, in cui avevano messo il pulsante. Perfetto. E hanno detto: noi siamo sicuri che nessuno andrà a schiacciarlo, e c'era una statistica, mi pare 1 su 10, 1 su 20 o qualcosa del genere, lo andava a schiacciare. Sì, quindi però, più o meno ricordo anche quello. Sì, però non ha un credo che abbia un... Cioè io ad esempio, piccolo sondaggio interno, io una volta ho schiacciato, una. Io per provare, però non mi è servito, non ho risolto la realtà. Vedi, quindi ci han beccato, è bello, vedi queste cose. Ce la sanno in Google. Studiano. No, io sono Doodle dipendente, cioè nel senso io aspetto le ricorrenze per andarmi a vedere il Doodle, perché è geniale. Ho giocato l'altro giorno. È bellissimo. Giochino. Attenzione, e vi svelo una cosa incredibile, ma probabilmente non la saprete. Google Chrome ricerca in internet senza connessione dati. Ok. Un dinosauro. Ma hai giocato? Sì. Ah, bellissimo. È quando c'è una lezione che non fa wifi. A me è cambiato la vita quella cosa qua. Ma bello. Veramente è cambiato la vita. E quindi, vabbè, aspetta, facciamo parlare all'esperto. Vai, raccontala com'è. Il dinosauro? Così almeno anche il pubblico. No, anche il pubblico può provare come funziona, cosa succede. Non voglio rubare il titolo, il ruolo a... Su Google Chrome, quando non c'è connessione a internet, c'è questo messaggio di mancata... C'è offline, mi pare, ti dica. Un messaggio di mancata connessione con un dinosauro schiacciando spazio, o da mobile schiacciando lo schermo. Si avvia questo giochino dove tu col dinosauro devi saltare gli alberi. Sì, vabbè, ostacoli a caso. Poi più diventa difficile. No, poi c'hanno anche gli uccelli sopra. E quindi devi abbassarti. Tanta roba. Quindi un complimenti ai ragazzi di Google. E sì, ovviamente adesso per queste citazioni dateci il dovuto, che almeno possiamo pagare qualche affitto anche noi. Insomma, abbiamo triturato e detto in tutte le lingue, in tutte le salse. Bene ragazzi, allora volete dire qualcosa? Volete fare un saluto? Vogliamo salutare? La mia famiglia! Insomma, tradizionalista, ci sta? Sì. Basta, l'unico che sia ha il coraggio di salutare qualcuno. Bene, gli altri se le tengono per sé, più salutiamo intimi. Salutiamo te, tutto lo staff. Grazie, va bene, bene, grazie, allora, grazie. Era logico, grazie. Che ci ha accolti molto bene, ci ha fatto sentire bene durante questa serata. No ragazzi, dovete venire in questo posto, una figata. Bene, grazie. E non ci hanno pagato, No, non ci hanno neanche offerto un cocktail. È sempre difficile rispondere a queste cose, ma grazie, se sono sincere, grazie. Anche tutte le storie di fare le varie... No, venite che scoprite tutto. Venite, non spoileriamo nulla. Ragazzi, volete dire qualcosa? No. No, posto così, loro sono democristiani, democristiani. Sì, sì, adesso mettiamo ancora un po' di musica e intanto li ringraziamo e li facciamo tornare a divertirsi ancora per un po'. Alla prossima ragazzi, ciao! Ciao! Ciao.